5. Ascolta e rispondi. Che cosa c'è in cucina? C'è un tavolo. Che cosa c'è in ufficio? C'è un computer. Che cosa c'è nella borsa? C'è un telefono. Che cosa c'è sul tavolo? Ci sono i fogli. Che cosa c'è nel vaso? Ci sono i fiori. Che cosa c'è in vetrina? Ci sono i dolci. Che cosa c'è nel frigo? Non c'è niente. Che cosa c'è nel piatto? Non c'è niente. Che cosa c'è nel cappello? Non c'è niente.